Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, ci ascoltate qui e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Visionare il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 su queste frequenze. Le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sia sul sito internet della radio, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook di Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci con Marco Visalberghi, produttore del regista del documentario Maestro, in uscita in sala il prossimo 23 gennaio lunedì e poi in distribuzione. Marco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno anche a voi. Allora, raccontiamo un po' tutti i passi di questo lavoro. Come è cominciato tutto? Da dove è partito? Ma vogliamo dire che è partito da una grande litigata, per modo di dire. Cioè, noi ben 4 anni fa sono stato avvicinato da una produttrice italiana che si chiama Donatella Altieri, che essendo pugliese aveva scoperto questa storia molto molto insolita di questo direttore d'orchestra che aveva speso tutti i suoi soldi, le sue energie e la sua forza per oltre 30 anni per andare alla ricerca di spartiti scritti nei campi di concentramento e raccoglierli, ed è venuta da me con questa storia. Io non ho litigato con lei, ma noi abbiamo cominciato subito a lavorarci perché ci sembrava un modo molto nuovo e innovativo di raccontare una pagina drammatica e che spesso viene anche ormai ignorata perché è diventata come un po' polverosa della nostra storia. E mentre lavoravamo insieme ci siamo resi conto che anche una società francese aveva approcciato Francesco Lotoro e stava lavorando con lui, e ci siamo rivolti a lui dicendo: ma com'è possibile, stai lavorando a due società, anzi a questo punto cioè erano diventate 4 società di produzione, 2 italiane e 2 francesi, che lavorano sullo stesso progetto, non è possibile. E lì è cominciata una litigata funesta. Francesco Lotoro, con una meravigliosa, splendida ingenuità della persona che crede totalmente nel suo lavoro e sa poco di queste cose, ci ha detto: sì, ma tanto voi lo fate per l'Italia, quelli lo fanno per la Francia. La litigata è andata avanti per 3 mesi, in cui ci saremmo uccisi volentieri, e poi abbiamo deciso invece di farlo insieme, ed è diventata una grossa produzione che ci ha impegnato 4 anni, e grazie anche alla Francia abbiamo avuto notevoli finanziamenti per portarla a termine. Mm-hmm. Marco, per chi ci ascolta, come è strutturato il documentario? Ma il documentario è una specie di road movie che racconta per 2 anni e qualcosa tutti i viaggi che Francesco Lotoro ha fatto in giro per il mondo alla scoperta di queste musiche. La cosa, detto così, sembra una cosa strana, ma insomma in realtà, una volta che finalmente i campi di concentramento sono stati liberati, molte delle musiche che erano state scritte lì dentro sono finite dimenticate. Le persone hanno cercato di rimuovere l'orrore della guerra e quindi erano finite certe volte in bauli, certe volte ancora sotterrate in buchi dove le avevano nascoste, e Francesco è andato a rintracciare attraverso gli elenchi delle persone finite nei campi di concentramento, a vedere quali erano musicisti, dove avevano fatto, chi erano i parenti, chi era sopravvissuto, chi no, e in un lavoro certosino, pazzesco, ha ritrovato pezzetti di musica scritte sulla carta igienica, sul dietro della carta di formaggio, scritta su pezzi di stoffa, nei posti più diversi. E si è reso conto che in quell'atto di scrivere musica in mezzo ai cadaveri morti, alle camere a gas, c'era forse l'aspetto poi più bello dell'uomo, che riesce a non piegarsi e a rivendicare tutta la sua forza e identità in un luogo che te la toglievano e ti mettevano solo un numero sul braccio, proprio come atto di grande resistenza, di grande inno alla vita. Ecco, forse l'elemento, anzi probabilmente l'elemento più incisivo di questo, di questa storia, di questo lavoro, è che la musica comunque rappresenta la irriducibile espressione dell'anima umana e della libertà, che ha superato i confini del, dei, non solo dei lager ma anche del tempo. Ma assolutamente sì. Tra l'altro pensate una cosa, che la musica tutto sommato è un linguaggio internazionale che sì, capiscono tutti, per cui i prigionieri che si trovavano di nazionalità diverse, con linguaggi diverse, con cose diverse, con culture musicali diverse, si sono ritrovati lì dentro e ci sono dei pezzi che sono assolutamente meravigliosi e che sono un combino tra influenze di musicisti ebrei, di, invece di gitani, di rom, di nazionalità diversi, e spesso questa musica non ve la immaginate come una cosa triste di chi appunto rappresenta l'orrore nel quale vive, anzi era al contrario, raccontava le musiche che scrivevano prima, raccontava la gioia, ci sono pezzi estremamente allegri e divertenti lì dentro, perché era il cabaret che si faceva negli anni 20 e 30 in Germania, in Polonia, in Austria e così via. Per quanto riguarda il lavoro certosino di quest'italiano, c'è da dire, e questo viene anche rivelato nei titoli di coda, che lui ha messo mano e ha musicato 400 di questi, di queste musiche, mentre il numero complessivo è molto maggiore. Quando noi abbiamo cominciato questo film lui aveva trovato circa 4.000 spartiti, anche un pochino grazie ai viaggi che ha fatto per il film è arrivato a raddoppiarli, ritiene che ce ne siano ancora fuori molti, tant'è vero che noi ci siamo così appassionati alla sua opera che poi abbiamo messo in piedi una fondazione che si chiama Last Music. È scritto Last Music col K finale, perché così veniva detta nei campi di concentramento, che si batte per aiutare Francesco a completare la sua opera, quindi lo aiuta a mettere a fare dei concerti in cui queste musiche vengono suonate per la prima volta, lo aiuta addirittura, chi vuole può anche, come si dice, comprare 1, 2, 3, 10 chilometri del suo prossimo viaggio per andare a incontrare i prossimi superstiti, quindi chiunque vuole sul sito Last Music lo trova. Ma comunque la cosa bella e meravigliosa di quello che Francesco Lotoro dice è che questa musica, l'omaggio più bello che gli possiamo fare è non solo recuperarla, che serve poi a finire in una biblioteca e poco più, ma quello che lui dice, liberarla. Nel momento in cui uno riesce a farla rappresentare all'interno di una sala di concerto e farla sentire al pubblico o irradiarla tramite la rete, vabbè, in quel momento si libera. Sì. E ieri tra l'altro in occasione della conferenza stampa abbiamo liberato un pezzettino di musica che adesso si trova in rete e chiunque può sentirlo, che è una canzone bellissima scritta da Ipse Weber. Oh, non solo questo, perché lui come missione ha quello di musicare appunto questi lavori generati nei campi di concentramento, come anche obbligo morale di memoria storica. Assolutamente sì, questo è la lui, Francesco ritiene, ma insomma un po' tutti noi che ci siamo appassionati alla sua campagna ritiene che questa memoria è una memoria particolarmente importante. Lo accennavo un pochino prima, cioè quando si parla della Seconda Guerra Mondiale, dei campi di concentramento, è una storia talmente triste e depressiva che oramai quando fa Francesco capita di parlarne ai ragazzi nelle scuole, vede, gli sembra di parlare della Seconda Guerra Pubblica. Nel momento in cui lo fa attraverso la musica e dimostra e fa sentire questi pezzi e fa capire come lì dentro ci fosse questo grande atto di coraggio, è un modo effettivamente, come stavi dicendo, di rappresentare e raccontare una pagina di storia in modo, non si può dire positivo, ma certamente che ti mette nella voglia di far qualcosa, di impossessarsi di una memoria storica importante perché non si ripeta più. Marco, un altro elemento a cui facevi riferimento prima è quello dei tanti popoli di cui questa musica è espressione. Ad esempio citavi i Rom, i nomadi, che non sono stati solo gli ebrei a produrre tanta musica, ma anche loro, che in proporzione sono stati in proporzione numerica hanno subito uno sterminio anche maggiore. Assolutamente sì, se si fanno i raffronti tra il numero della popolazione e i morti nei campi di concentramento, sono quelli che hanno pagato il prezzo maggiore. La cosa bella è che, tra l'altro, tenete presente che i Rom non leggono le note, sì, e non scrivono la musica, sì, quindi recuperare la musica dei Rom richiede una pazienza tutta particolare, perché bisogna la si recupera per tradizione orale, quindi c'è una ricerca molto complicata per metterle insieme. E vi dico che quando abbiamo sentito alcuni pezzi, appunto, parlavo di questa ibridazione tra perché poi nei campi stavano tutti insieme, questa unione di pezzi scritti a più mani effettivamente è veramente emozionante, perché si ha l'idea della forza che c'era lì dentro. Poi la musica gitana può essere una musica molto esuberante, molto coinvolgente. Sì. Marco, esce il 23, giorno della memoria, però poi sarà anche in circuitazione nelle scuole a partire dal 27, se non sbaglio. Assolutamente sì, speriamo sì, che lo vadano a vedere. Poi, tra l'altro, sarà anche in onda su Rai 3 il 26 sera alle 11:20 e poi ripetuto il giorno dopo. Quindi noi stiamo cercando di far conoscere questo pezzo di storia e questo pezzo di ricerca, anche perché, vogliamo dire, è un'occasione di grande orgoglio italiano, perché senza veramente, dico, facendolo tutto sulle sue forze, Francesco Lotoro ha fatto un'opera che non sono riusciti a fare da nessun'altra parte. Sì. Senti, c'è la possibilità anche di una programmazione nelle sale? Sì, il 23 esce nelle sale, poi attraverso i circuiti UCI e Space, però qualora le cose vadano bene, come noi ci auguriamo, continuerà a girare nelle sale, appunto, sia per le scuole che nelle trasmissioni, nelle proiezioni normali, e spero che usciremo insieme a Luce presto anche in DVD. E l'unica cosa che mi piace ancora dire è che tra pochissime ore, stasera alle 7, ci sarà l'anteprima mondiale che abbiamo organizzato a Barletta, città natale di Francesco Lotoro, che tra l'altro ci ha messo a disposizione anche il teatro, dove abbiamo liberato alcune delle musiche scritte da Francesco, in cui siamo stati aiutati dalla Film Commission locale in modo assolutamente, diciamo, meraviglioso, e quindi abbiamo deciso di venire a fare l'anteprima per rendere omaggio a Francesco Lotoro, alla sua città natale e a chi ci ha ospitato così bene. Marco, un abbraccio, a risentirci presto, in bocca al lupo. Grazie a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie, ciao, ciao, ciao. Arrivederci, grazie. Marco Visalberghi, produttore del documentario Maestro, in uscita in sala nel giorno della memoria, il prossimo lunedì 23 gennaio. Fabrizio Ferraro, regista del film Colossale Sentimento, oggi a Roma al Cineclub de Tour stasera. Fabrizio, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao, buongiorno. Allora, raccontaci un po' questa nuova avventura. L'avventura, diciamo, è un'avventura molto particolare, soprattutto per la città anche di Roma, nel senso che abbiamo voluto recuperare, riscrivere un'opera abbastanza colossale di Francesco Mochi, che è uno scultore barocco, un'opera rifiutata dal committente, quindi un po' maledetta, in realtà è il battesimo di Cristo, e abbiamo deciso che il cinema poteva essere un ottimo pretesto per far sì che veramente riuscisse ad andare fuori dalle sale, dallo schermo, quindi spostare quest'opera molto colossale di 5-6 metri, questi marmi enormi per la città di Roma, riportarle nel luogo originario dove Francesco Mogli le aveva pensate e che però non sono mai riuscite ad arrivare. Com'era partito tutto? Ma è partito, parte un po' tutte le cose da incontri, da riflessioni, e il soggetto è scritto insieme a Simone Ferrari, quindi anche da conversazioni con ottimo vino, e poi anche da un'esigenza un po' di questa nostra periodo un po' particolare che stiamo vivendo, quindi anche il rapporto alle immagini, il rapporto a questa transizione, ormai non più tanto transizione, definizione della plastica, della molezza digitale, quindi forse pensavamo che ci fosse bisogno di anche per noi di rivivere un'esperienza appunto colossale, come proprio colossal, però non costruito con artifici, codici digitali, né costruito con anche vecchi e grandissimi artigianato di una volta, ma questa volta davvero spostando, mettendosi sulle spalle e rifacendo poi quest'opera, quanto per far vedere quanto lavoro ci sia bisogno poi per raggiungere uno stato di benessere, di bellezza tra noi esseri umani, che siamo sempre più piccoli delle opere. Senti Fabrizio, quali sono gli elementi che più ti hanno convinto nella visione, nell'estetica di questo artista? Ma è uno scultore molto importante, e uno scultore che cioè, è un po' dimenticato, ma in passato è stato considerato molto, e succederà poi come accadono queste cose, servono anche delle fratture. Caravaggio per esempio adesso è quasi considerato un pittore pop per quanto sia presente nella riflessione, nelle immagini delle persone, nei riferimenti, ma fino a che Longhi non lo tirasse fuori con i suoi studi tantissimi anni fa, e ha avuto anche lui dei passaggi oscuri. E quella luce di Mogli è una luce adesso un po' oscurata, ma che secondo me inizierà, perché è un barocco molto particolare in cui pesa ancora nella forma, nella materia, la gravità del sostare, la gravità del gesto. E quindi anche il suo lavoro nelle forme aperte era abbastanza in sintonia col cinema che facciamo noi, che è sempre una forma molto aperta e non è facilmente riconducibile a qualcosa di predefinito. Senti Fabrizio, stasera alla tua presenza ci sarà questa proiezione al Cine Club de Tour, l'orario intanto qual è? Alle 20:30. Dopodiché come sarà fruibile per chi volesse vederlo in sala? Guarda, io non l'ho distribuito da Zoomia e insieme a Malastrada. Sì. So che poi sarà anche a Milano, a Perugia, e poi a Lecco, non so, farà un giro di sale. Per quanto riguarda invece Roma, faremo fare un percorso un po' particolare, visto che comunque il film in qualche modo riscrive in questa idea di opera aperta, riscrive questa scultura che secondo me quando poi la gente, chiunque, amici, gente, va poi dopo aver visto il film vada a controllare dal vivo di persona nella propria esperienza nella chiesa San Giovanni Battista dei Fiorentini in via Giulia, dove le abbiamo portate, e quelle sculture non saranno più come prima, ma saranno mutate. Quindi in questa idea di riscrittura continua alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, nella questa mostra sul sensibile comune che Ilaria Bussoni, Cesare Pietro Chiusti e Nicola Smartino stanno curando, hanno chiesto un contributo in questa sezione opere in costruzione. Allora l'idea di mettersi in gioco, anche un po' sabotando la propria dimensione, un po' che andrebbe distrutta, dove poi a volte ci rinchiudiamo anche noi, di autore, di opera chiusa, dove l'autore cerca di rispecchiarsi nella propria opera, ma in realtà c'è poco da rispecchiarsi, quindi verrà poi sabato e domenica, il film verrà distrutto praticamente, musicato dal vivo in una distruzione della sua forma originale da Daniele Di Bonaventura al bandoneon, Michele Rabbi alle percussioni, e Ludovico Takeshi Minasi, che è un violoncellista barocco, e per poi ritornare in una proiezione che ancora adesso non ne renderemo pubblica, nella sua forma originaria, in un teatro di Roma aperto a tutta la cittadinanza. Mm-hmm. E poi in giro così per l'Italia. Sono le fatiche di questi film che però riescono a incontrare poi veramente le persone, la gente. Senti, c'è una pagina Facebook, un sito internet? Penso di sì, perché Zumia, che distribuisce, penso che sì, abbia fatto una pagina, tutte le cose che di solito si fanno ormai stancamente, perché è diventata una frattina. Fabrizio, io ti ringrazio, un abbraccio, alla prossima. Grazie a voi. Ciao. Fabrizio Ferraro, regista del film Colossale Sentimento, al Cineclub de Tour stasera, giovedì 19 gennaio. E ora con l'organizzazione di Venti di Mesopotamia, rassegna auto-organizzata di cinema curdo, qui a Roma, in diversi luoghi della città, dal 22 gennaio al 23 febbraio. Eccoci qui, benvenuta. Grazie di questa telefonata. Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Raccontaci un po' di questa rassegna e delle tante anime che l'hanno messa in piedi. Allora, questa rassegna parte un po' un input che arriva dalla rete Kurdistan romana, che è appunto la rete di realtà singoli e singole che supportano, insomma, l'attività politica della resistenza curda qui in Italia, con l'idea di raccontare quello che si vive in particolare nel Kurdistan in Turchia, nel Kurdistan turco, attraverso ovviamente il cinema, cioè attraverso film sia di registe e registi curdi, che tra l'altro vivono in particolare la difficoltà non solo di produrre le proprie opere, ma anche di farle circolare con la dovuta attenzione. Come sappiamo, in Turchia in questo momento, e in particolare contro la resistenza curda e contro i partiti che in qualche modo fa riferimento proprio alla costruzione di una prospettiva, diciamo, che è quella del confederalismo democratico, lo Stato turco sta operando una repressione molto feroce. Si stanno chiudendo giornali indipendenti sospettati, insomma, di raccontare di essere vicini alla causa curda, si arrestano gli avvocati, si arrestano i giornalisti, c'è la difficoltà anche a far circolare cinema, insomma, che proviene dalla realtà curda, e quindi c'è necessità di raccontare anche questo cinema, di farlo vedere, e di farlo vedere ovviamente anche fuori dai confini della Turchia, per dare modo anche agli spettatori, alle spettatrici, insomma, ai compagni e alle compagne italiani, di poter vedere attraverso gli occhi dei registi e delle registe che scelgono anche di mettersi in gioco quello che si sta vivendo in questo momento. Quindi avremo anche contributi di compagni che sono stati, che hanno raccontato per esempio il massacro di Cisre, tre giorni in cui la città di Cisre è stata posta sotto assedio, dove praticamente lo Stato turco, attraverso i propri militari, ha reso impossibile la vita alla popolazione, ha torturato, ha chiuso le persone dentro casa, le ha costrette a stare senza acqua, senza luce, senza viveri. Assedio di cui si è parlato abbastanza poco anche nei quotidiani italiani, e questo sarà per esempio lunedì prossimo, il 23, al Cineforum Domus in Viale Adriatico. Avremo la presenza di una regista, di una giovane regista curda, Leyla Toprak, che arriva qui a Roma per la prima volta con due cortometraggi. Lei è anche una coreografa, quindi ha una, come dire, un'esperienza teatrale prima ancora che cinematografica, che racconterà da un punto di vista femminile, quindi con uno sguardo molto empatico, quella che è la vita delle guerrigliere a Kobane. Lei le ha seguite e le ha intervistate nel 2014 e quindi ci riporta questo staccato che mette insieme insomma l'amore, l'idea di che cosa è l'amore insomma per chi combatte, chi fa la scelta appunto di combattere, di aderire alla guerriglia e che cosa è la, qual è la prospettiva insomma che queste donne, queste giovani donne hanno. E poi con un altro cortometraggio che si chiama Il fazzoletto rosso, molto interessante perché racconta l'importanza della danza tradizionale curda, la lai, dentro le carceri dove sono detenute e detenuti, in particolare detenute le prigioniere politiche. Chi si affianca insomma alla causa curda, chi è parte insomma dei movimenti di resistenza curda in Turchia, subisce delle pene pesantissime insomma ancora oggi. Insomma, è un caso appunto di Demirtas, ultimamente è stato condannato a 125 anni di carcere, insomma delle cose che anche nei nostri paesi, dove pure insomma la carcerazione per i movimenti insomma politici è stata abbastanza pesante, oggi è difficile insomma che questo accada. Quindi inizieremo appunto da domenica con un primo appuntamento dove ci sarà appunto la regista Laila Toprak, proietteremo il suo cortometraggio Distant, che appunto racconta delle guerrigliere a Kobane. Lei sarà qui a Roma per altri due giorni, quindi al Cineforum Domus e poi al Cinema L'Aquila, che ha deciso di aderire a questa iniziativa, e poi si proseguirà con la settimana successiva dove saremo al Detour con Sara, tutta la mia vita è stata una lotta, e poi a Casale Falchetti dove proietteremo invece Mustang, che non racconta, come sapete, come sa chi appunto ti ascolta Visionari, non racconta ovviamente specificamente della vicenda curda, ma ci sembrava un film utile a raccontare invece una società fortemente tradizionalista come a quella in particolare della Turchia sotto Erdogan. Poi magari ci risentiremo con le prossime iniziative perché si va avanti fino al 23 febbraio. Ecco Sara, volevo chiederti una cosa rispetto ai titoli, quanti sono quelli proposti più o meno? Sono 9 titoli, alcuni sono inediti qui in Italia, appunto come il film della Toprak, che tra l'altro stiamo sottotitolando con insomma uno sforzo anche di compagne che si sono messe a disposizione, perché questa ovviamente è un'iniziativa diciamo del tutto auto-organizzata, quindi come tutte le iniziative auto-organizzate ci stiamo dando da fare per rendere al massimo insomma anche il senso di quelli che sono questi film. Quindi sono 9 film, 3 ve ne ho già citati. Più o meno che periodo coprono? Da che anno? Allora, dunque, come uscita del film? Come produzioni proprio? Sì, allora sono alcuni sono uscite recenti, perché appunto il film di Leila è stato prodotto nel 2015 e è uscito nel 2016. Sì. Ugualmente l'ultimo film di Veysi Altay, che sarà il prossimo regista curdo che ospiteremo, che ha un'esperienza di viene al mondo della fotografia, un fotografo professionista, un fotoreporter che poi ha deciso anche di abbracciare la regia. L'ultimo suo film, che è Nujin, Nuova Vita, è sempre del 2016. Poi avremo La canzone perduta di Erol Mintash, distribuito in Italia dalla Bottanta, che se non era uscito in Italia nel 2015, quindi abbastanza film diciamo che sono usciti dal 2015 e il 2016 come anno diciamo di riferimento, mentre ci sono anche storie che invece vanno un po' più indietro nel tempo, perché La canzone perduta per esempio racconta degli anni 90, no? Sì. Quindi di quello che si viveva insomma in particolare per i curdi a Istanbul negli anni 90, le persecuzioni, l'impossibilità di insegnare in lingua curda e quant'altro. Senti un'altra cosa, diciamo anche tutti i luoghi in cui passerà questa rassegna e poi tutti i riferimenti web per avere maggiori dettagli. Sì, allora spero di non dimenticarne qualcuno comunque, quindi si inizia con La città dell'altra economia il 22, poi il Cineforum Domus, che è in Viale Adriatico 20, ospiterà 2 serate, una è quella di lunedì e la successiva mi sembra che sia il 16 febbraio, poi ci saranno 3 appuntamenti anche al Cinema L'Aquila, che insomma è stato da poco riaperto grazie insomma alla presa in carico del comitato di quartiere, che si è ripresa insomma quell'esperienza importantissima per il Pigneto, poi il Cinema Palazzo, quindi a San Lorenzo, il Detour che ho già citato, Casale Falchetti con 2 appuntamenti. Questi sono più o meno se non mi sbaglio, insomma, tutti gli spazi che in questo momento hanno deciso di ospitare, anzi ci stanno supportando. Ah, scusate, no, Casale Alba. Casale Alba 2, che in cui saremo il 20 febbraio, appunto con un film appunto di Veysi Altay, questo regista curdo. Devo dire, per chiudere, che in realtà noi abbiamo adesso a disposizione, perché ci stanno arrivando film di altri registi che vorrebbero, insomma, farli proiettare qui in Italia, quindi non è escluso che poi la cosa proseguirà anche successivamente. Per quanto riguarda invece i riferimenti, per il momento c'è una pagina Facebook solamente, che è Venti di Mesopotamia, altrimenti si possono trovare riferimenti sul sito della rete Kurdistan Roma, e anche su Wiki, che ci sta ovviamente supportando, con l'ufficio di informazione del Kurdistan in Italia, che ci sta supportando ovviamente anche fornendoci i contatti con i registi e con l'Accademia del Cinema di Ahmed di Diyarbakir. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo, e magari ci si sente nel corso delle settimane per gli aggiornamenti. Grazie a te, Crepin. Baci. Un abbraccio. Ciao. La rete Kurdistan Italia sulla rassegna Venti di Mesopotamia, rassegna auto-organizzata di cinema curdo a Roma in vari luoghi dal 22 gennaio al 23 febbraio. Questo è Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza e in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info sull'home page Ascolta la diretta. Le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sia sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni, Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, mentre l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Olga Bruciani di Lucky Red sulla distribuzione del film Il viaggio di Fanny, in uscita in sala. Il film esce in evento il 26 e il 27 gennaio, quindi okay, giovedì e venerdì prossimo, in occasione della giornata della memoria. Sì. È un film a cui noi di Lucky Red teniamo molto, ha vinto l'ultima edizione del Giffoni Film Festival, quindi è stato premiato da una giuria di internazionale di bambini e ragazzi, e questo ci ha riempito di gioia allora e anche adesso che lo stiamo proprio promuovendo con le scuole. Il viaggio di Fanny è il quinto titolo, se non sbaglio, di Lucky Red, che Lucky Red distribuisce sul tema dell'Olocausto, a dimostrazione del nostro impegno, insomma, della volontà di essere attivi in questo processo culturale, di conservazione della memoria storica. È una storia vera e inedita per quanto riguarda l'Italia, perché prima di diventare un film è una storia vera che è stata raccontata in un libro che però in Italia non ha trovato un editore, quindi per conoscerla l'unico modo è andare al cinema il 26 e il 27 gennaio. Se volete ve la racconto in brevemente. Beh sì, diamo qualche riferimento a chi ci ascolta. Ok, allora, il film è la storia appunto di Fanny Bellamy, una tredicenne che insieme alle due sorelline minori viene lasciata dai genitori in una delle colonie francesi che durante la Seconda Guerra Mondiale erano destinate a proteggere i minori dai rischi della guerra. Sono ebrei loro e gli altri bambini che si trovano nello specifico in questa colonia, e quando i rastrellamenti nazisti si intensificano e i rischi quindi si aumentano, vengono costrette da coloro che le ospitavano alla fuga. Non vi dico se ci riescono, se non ci riescono, il tentativo è quello di raggiungere la Svizzera per salvarsi, non vi dico cosa attraverseranno durante questo viaggio, però vi posso dire che è davvero un viaggio molto emozionante, raccontato dal punto di vista dei ragazzi, e questo è anche piuttosto originale. L'intento della regista Lola Doyon era quello di dimostrare come si possa raccontare un dramma però la leggerezza tipica dei ragazzi, dei bambini. Questo non significa superficialità, anzi significa mettere in mostra quella capacità innata e che noi adulti appunto crescendo perdiamo, che è la resilienza, e quindi la capacità di trovare del positivo anche nelle situazioni negative. Questo il viaggio di Fanny lo mostra benissimo, e ed è il motivo per cui stiamo anche riscuotendo l'interesse di molte scuole in tutta Italia per proporlo agli studenti. Allora, ci ripeti le date di uscita e anche spazi web di riferimento per saperne di più? Sì, allora, il film esce il 26 e il 27 gennaio per tutti, diciamola così, nei normali orari pomeridiani e serali. In più, per le scuole diamo la possibilità, visto le difficoltà logistico-organizzative di molti istituti, a vederlo anche nei giorni a seguire. Lo rendiamo disponibile, diciamo, per tutto l'anno scolastico, perché non sia solo una operazione commerciale, anzi quando l'abbiamo acquistato perché fosse un'operazione educativa e culturale, anche perché offre ottimi spunti e assist per una riflessione anche sulla triste attualità che vediamo tutti i giorni. Quindi il 26 e 27 gennaio è a seguire per le scuole. E come riferimenti ovviamente il sito www.lachired.it, e in modo specifico il sito www.ilgiornodellamemoria.it, dove sarà possibile anche, dove è già possibile scaricare molti materiali sul film e anche i dossier didattici che generalmente prepariamo per aiutare gli insegnanti a far sì che l'esperienza cinematografica non si esaurisca, diciamo, con i titoli di coda, ma possa proseguire in classe con un dibattito, un confronto con gli allievi. Olga, molto precisa e dettagliata, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci. Grazie presto. Grazie a te, Federico, a tutti. Ciao, ciao. Olga Bruciani di Lucky Red sulla distribuzione del film Il viaggio di Fanny, in uscita in sala il 26 e 27 gennaio. Proviamo questo collegamento dal treno con Chiara Cremaschi, regista del documentario Senza di voi, perché sta arrivando a Roma, dove stasera il documentario sarà presentato con lei all'Apollo 11, stasera giovedì 19 gennaio alle ore 21, se non sbaglio. Chiara, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao. Allora, raccontaci un po' di questa storia. Allora, ho un film su più livelli. La storia nasce da quando sono partita per Parigi, e su quello ho deciso di chiedere, cioè di raccontare in realtà le volte che nella mia famiglia erano già partite diverse persone dall'Italia, in particolare due miei cugini che sono scappati di casa nel 94. Questo è un po' il filo conduttore. Su questo racconto un po' di avvenimenti storici fino ad arrivare a Genova nel 2001. Senti, come c'è anche un filo conduttore in questa specie di fughe dall'Italia? Non sento più. Pronto, ci senti? No, sento malissimo, sento lontano. Ti chiedevo se c'è anche un filo conduttore in queste partenze dall'Italia, se sono dovute tutte a motivi simili. Ma sì, sono tutte dovute all'impossibilità di sentirsi bene in Italia in quel momento storico. Mm-hmm. Questo è un po' il filo conduttore. Mm-hmm. Poi ad esempio i miei nonni sono ritornati sperando che il futuro sarebbe cambiato, i miei cugini sono tornati perché erano troppo giovani e non hanno trovato modo di restare, e io intanto per ora resto in Francia invece. Senti, come riferimento Genova 2001, che ha segnato quel momento? Io penso per me, però la mia generazione, o comunque quel pezzo di generazione che sono stati i miei amici, la fine dei sogni, la fine di pensare che anche noi avremmo potuto cambiare delle cose e vivere in un posto che poteva essere diverso da quello che poi l'Italia è diventata. E poi è stata una situazione molto violenta, in cui siamo stati schiacciati dallo staff, quindi troppo per me, insomma. Un paio di domande, due curiosità che mi venivano in mente sentendo la tua storia, Chiara. C'è la possibilità anche all'estero di praticare questa voglia di trasformazione dell'esistente? Allora, secondo me sì, nel senso che allora, sulla mia esperienza è relativamente più semplice, perché arrivi come straniero, lo sei, e ti muovi in questo modo. Cioè, una delle cose dell'Italia per me era che, appunto, che io ero qui, era la mia città o la mia nazione, quindi non pensavo di, cioè, pensavo che sarebbe stato un altro processo, mentre invece lì sono una straniera e mi muovo, no, non dico solo come esiliata perché non è vero, ma come persona che parla un'altra lingua, che si muove in un'altra situazione. E in Francia è una situazione complicata, ad esempio, ma ci sono ampi margini di lavorare nella società, ad esempio, perché c'è un sistema di servizi, di rispetto della cultura, di lo statuto, ad esempio, per i lavoratori dello spettacolo, che in Italia non esiste. Cioè, queste sono diverse cose. Sì. In Francia fanno tanti bambini perché li aiutano, in Italia i bambini non si fanno e basta. Non so, me ne vengono tantissime a caso. Questa è la sua domanda, però un po' così. E Chiara, continui anche a seguire il quotidiano, la politica e la società italiana anche? Assolutamente, certo. Che idea ti stai facendo rispetto all'evolversi del... Devo risponderti sinceramente. Certo. Penso che, non so, che sia sempre peggio, nel senso che non c'è sempre meno rispetto per tutto. E quindi, ad esempio, dei motivi era andarsene a senso in un momento in cui mi sembra che vada tutto sempre peggio, e non so se è giusto restare, continuare a cercare di fare delle cose. È la domanda aperta del film, io, proprio perché quando vengo, per quello che vedo intorno a me, amici di qualsiasi età disoccupati, e poi figurati sono del nord Italia, per cui integrazione anche quella è sempre peggio, non so, dico solo cose brutte. Senti, allora stasera tu sarai all'Apollo 11 qui a Roma, volevo sapere con poi... mio fratello Carlo, che ha scritto il film con me, ho scritto le musiche anche. Ah, bene. E ci sono anche dei riferimenti web per avere maggiori informazioni su questo tuo documentario, e poi c'è l'eventualità di una distribuzione? Allora, il film per ora è distribuito in Francia da una distribuzione che si chiama Intas, che ha lavorato molto bene, l'ha fatto andare in tanti festival, e sia in Francia che in Italia, che in altri posti, è stato a Londra, così. In Italia no, non ha ancora una distribuzione. C'è un riferimento sul sito di Insolence e una pagina Facebook, se qualcuno volesse saperne di più. Benissimo. Chiara, allora un abbraccio, a risentirci presto, spero. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao, ciao. Buona giornata. Anche a te. Chiara Cremaschi, regista del documentario Senza di voi, questa sera a Roma, all'Apollo 11, giovedì 19 gennaio. Bene, una puntata internazionalista, abbiamo parlato di una rassegna di cinema curdo, passiamo ora a parlare di cinema al femminile, cinema palestinese. Questo sabato 21 gennaio alla Casa Internazionale delle Donne qui a Roma. Ne parliamo con Luisa Morgantine di Asso Pace Palestina per presentare questo evento dal titolo Donne palestinesi raccontano, 5 film, 5 giovani registe. Luisa, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie molto a voi. Ben ritrovati. È un piacere averti di nuovo con noi. Raccontaci un po' come nasce questo evento. L'evento nasce dal fatto che vi è questa regista, ma anche produttrice indipendente palestinese, Shahira Dirbas, che ha fatto diversi film già visti anche in Italia, anche al Festival di Cagliari, e che insegna a cinema in Palestina, e quindi ha usato questi giovani che stanno facendo cinema per raccontare la storia orale di donne che hanno storie tragiche. Una di queste, per esempio, non c'è più, si chiamava Asma, è una ragazzina di 16 anni che è stata arrestata nella prima sui interrogatori, probabilmente ha parlato, non si sa, non si capisce, però alla fine lei esce dal carcere, non regge, si suicida. Ma è una storia non solo di dolore, però la cosa interessante è che sono storie di donne che in realtà agiscono, sono protagoniste anche della loro lotta di liberazione, ed è interessante raccontare appunto storie di queste donne anche per le nuove generazioni. Questa è anche l'idea, quella di unire generazioni diverse di donne palestinesi, e come si sa ormai 50 anni la Palestina vive sotto occupazione militare israeliana, e da più di 70 anni ormai la Palestina che esisteva non esiste più, è stata spartita, e le donne raccontano se stesse, la loro vita, la loro resistenza, ma anche le loro gioie, i loro dolori, e anche cantare, ballare, quello che in realtà le donne palestinesi vorrebbero fare, libere dall'occupazione militare. Quindi è interessante anche mostrare al mondo questa resistenza delle donne palestinesi, ma anche della Palestina, che non è soltanto lacrime e sangue, ma invece è una resistenza quotidiana, e soprattutto il fatto che i palestinesi pensano molto, creano molto, e appunto fanno cinema, fanno teatro e tantissime altre cose. Senti, sono nasce così, nasce per raccontare, per dire, per far conoscere la storia di queste donne, ma anche per far conoscere la Palestina, che non è solo vittime o quello che ci fanno credere terroristi, ma invece una Palestina che crea, inventa, studia, lavora, fa cinema. Sono tutti film delle ultime stagioni? Sì, i film sono stati fatti da pochissimo. I racconti delle donne sono racconti di storie anche della prima intifada, sono storie di una donna, per esempio, che racconta come l'acqua sia fondamentale, come riesce a vivere trovando e cercando acqua in un posto, appunto, e coraggiosamente, perché racconta però questa storia che serve alle nuove generazioni, come da noi in fondo le nuove generazioni palestinesi, sia nella diaspora, che quindi nei campi profughi, gli altri luoghi, sia anche all'interno dei territori occupati, sono dimenticati il significato, le storie, anche le fatiche, le conquiste e le sconfitte che hanno subito generazioni precedenti. E quindi questo modo è un modo anche per cercare di tenere insieme e dare storia alle diverse generazioni di donne. Luisa, quali sono a tuo avviso gli elementi più interessanti di questo punto di vista femminile di questi 5 titoli? Beh, sono tutti molto interessanti. Il messaggio che ne esce è appunto questa capacità delle donne di resistere, di mantenere la memoria, di di mantenere le tradizioni, ma anche di essere capaci di cambiare. Ci sono donne della prima intifada che in realtà hanno cambiato le tradizioni, ma che sono nella lotta. Quindi è quello delle donne protagoniste di sé, e non che subiscono o il patriarcato o l'occupazione militare, la colonizzazione. Donne che vivono, vogliono vivere e raccontano di sé, raccontano alle giovani generazioni, ma tengono, vivono non soltanto anche la memoria, ma anche la lotta per la liberazione dall'occupazione militare. E nella società hanno un ruolo di peso? Come? Le donne nella società palestinese hanno un ruolo di peso? Beh, hanno avuto un ruolo di peso e hanno tuttora un ruolo di peso. È molto peggiorata in realtà anche per le donne palestinesi in questi ultimi 15-20 anni. La situazione è, io credo, peggiorata invece che migliorata per alcuni aspetti, anche se continuano. E per esempio anche in Palestina si parla molto della lotta al patriarcato, si parla molto e si discute anche del femminicidio, dei diritti d'onore. Sono stati salti molto alti, ma anche la continuità dell'occupazione militare, soprattutto se si pensa anche a Gaza, non aiuta certamente alla lotta di liberazione delle donne, anche se nel passato l'è stato molto di più. In questo periodo in realtà alcune delle conquiste delle donne si stanno perdendo. Senti, allora ci racconti come si svolgerà l'evento, certo. Da che ora a che ora, insomma, più o meno? L'evento intanto inizierà alle ore 17 alla Casa Internazionale delle Donne in via della Lungara 19. Sì. Inizierà, vi saranno interventi esterni come quello di Dilma Labate, regista italiana, e poi ci sarà Saïra Dirbas, che appunto è la regista e produttrice, e poi una giovane filmmaker palestinese che si chiama Rana Awad, che sarà anche lei con noi, che non fa parte delle 5 registe esordienti, però è anche lei impegnata sul fronte appunto dei filmmaker, che molti sono le generazioni nuove che si stanno impegnando in questo in Palestina. Quindi parleremo, racconteremo, ma soprattutto si vedranno i film. Vi sarà un intervallo dopo la proiezione dei primi 2 film ed avremo un assaggio di qualcosa di palestinese, che è pane, olio e zatar, molto buono peraltro, e poi continueremo con la proiezione dei film e anche interventi di persone che vorranno chiedere e capire. Mi auguro che sia molta gente. È molto importante conoscere la Palestina non con gli occhi dei giornali internazionali, ma con gli occhi delle palestinesi che raccontano di sé. Ecco, proprio a questo proposito un'ultima domanda, Luisa. Al di là della cronaca, quali sono le prospettive oggi per i palestinesi e le palestinesi? Mi sembrano tragiche, grazie alla complicità della comunità internazionale, dell'USA, ma anche dell'Europa, dei paesi arabi, tutto il mondo. In realtà oggi il governo Netanyahu, che è uno dei governi più a destra possibili e immaginabili, osteggiato da alcuni israeliani coraggiosi che hanno a cuore la loro coscienza, ma anche il futuro probabilmente di Israele, il governo Netanyahu è inesorabile, grazie anche al fatto che si sente forte dalla vittoria di Trump. Sta compiendo un'escalation pazzesca nella colonizzazione del territorio. Ogni giorno si porta via terra, ogni giorno si costruiscono nuovi insediamenti, ogni giorno gli vengono ammazzati i ragazzini e vengono messi in carcere decine e decine di attivisti. E due giorni fa addirittura nel territorio del 48, dove Israele vuole evacuare i beduini per far posto in realtà a loro città, è stato ferito veramente grave con una pallotta, per fortuna di gomma, alla testa ma anche alla schiena, Ayman Odeh, che è il capolista della lista, appunto della joint list composta da arabi, anche da ebrei. Quindi un'escalation fortissima e una scarsissima risposta da parte della comunità internazionale, che si limita a denunciare senza però applicare ad Israele sanzioni che possano farla desistere dalla continua colonizzazione. Le prospettive sono difficili, perché i palestinesi sono anche stanchi, martoriati, non ne possono più, sono anche a volte rassegnati, tranne movimenti ancora di resistenza popolare non violenta, che però appunto Israele ovviamente osteggia ancora di più che se non fosse la resistenza armata, perché fa paura, perché ovviamente hanno di fronte a sé persone disarmate che manifestano e che loro continuano a uccidere, comunque a mettere in galera. Quindi veramente è una situazione molto molto complessa, molto complicata, e se non cambiamo noi, se non cambiano le politiche europee o internazionali, si dice ad Israele basta, non si può sempre essere impuniti. La vedo veramente difficile per i palestinesi, i palestinesi che continuano però a dire: noi qui stiamo, noi qui residiamo. Anche solo respirando. Luisa, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie molto a voi. Ciao, ciao, ciao. Luisa Morgantini di Assopace Palestina sull'evento Donne Palestinesi Raccontano, 5 film, 5 giovani registe alla Casa Internazionale delle Donne qui a Roma sabato 21 gennaio. Pinangelo Marino, direttore della quarta edizione del mese del documentario qui a Roma, alla Casa del Cinema, dal 23 gennaio al 19 febbraio. Pinangelo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità, dell'invito. Un mese del documentario che seguiamo in ogni edizione. Allora, per chi ci ascolta e non lo conoscesse, quali sono le caratteristiche di questa rassegna, Pinangelo? Il mese del documentario dunque arriva alla sua quarta edizione, è una manifestazione, un evento organizzato dall'Associazione DocIt, documentaristi italiani, e si realizza in collaborazione con la Casa del Cinema di Roma, come sapete. Quest'anno gode, lo dico, lo voglio dire, gode del sostanziale sostegno della SIAE, della regione Lazio. Il mese di quest'anno propone 8 titoli scelti tra i film documentari migliori del 2016. Che hanno film italiani, internazionali, che hanno partecipato con successo ai festival nazionali e internazionali nell'arco dell'anno 2016. Partiremo il 23 gennaio, lunedì, con un splendido, appassionante film sull'ultima tournée dei Rolling Stones in America Latina, ed è la prima volta che Rolling Stones arrivano e si esibiscono a La Habana. È un film particolarmente appassionante che apre dunque la rassegna di quest'anno. Ci sono altri titoli interessanti. Io in questo momento ci tengo anche a segnalare la nostra proposta che riguarda le masterclass che saranno organizzate, si svilupperanno alla Casa del Cinema sempre dal lunedì 23, masterclass che proporranno, come dire, temi che sono particolarmente attuali per ciò che riguarda l'evoluzione del linguaggio narrativo del cinema documentario più innovativo, e per tutto ciò che riguarda invece come dire, l'evoluzione del sistema produttivo, commerciale, professionale del settore. Il mese, io vi invito, perché poi non riuscivo a dire tutto, vi invito a consultare le nostre pagine social e il nostro sito, dove potete trovare tutte le informazioni relative ai contenuti dei film, che sono splendidi, direi, quest'anno, e per tutto ciò che riguarda i contenuti delle masterclass. Le sale di città coinvolte quest'anno sono naturalmente Roma, Casa del Cinema, Firenze, Bologna, Milano, Torino, Senigallia. Le principali sale di queste città ospitano i nostri film. Dimmi se devo aggiungere qualcosa. Sì, no, nel senso, visto che l'anima è DocIt e siamo alla quarta edizione di questa rassegna, e credo che tu segua tutto fin dall'inizio, qual è a tuo avviso lo stato del documentario oggi in Italia? Lo stato del documentario in Italia? Io devo dire che il documentario sta vivendo una fase abbastanza felice per ciò che riguarda, diciamo così, la sua presenza nel contesto non soltanto cinematografico, ma io direi nel contesto culturale del nostro paese. E abbiamo dei numeri, dei riscontri oggettivi che ci arrivano appunto dalle sale, ci arrivano appunto dai mercati, dai festival sempre più frequentati, sempre più apprezzati dal pubblico. E c'è una importante rete che si sta creando sul piano internazionale, di questo siamo felicissimi. Ci sono in Italia delle realtà locali, regionali, locali che stanno dando prova di grande efficienza nel portare avanti, nel sostenere questo tipo di cinema documentario. Io ci tengo anche a precisare che se il cinema documentario, diciamo così, quello che è creato per le sale, quindi è per le sale, sta conquistando l'interesse del pubblico, e il mese del documentario quest'anno, per me è la prima volta in veste di direttore artistico del mese del documentario, il mese del documentario quest'anno appunto propone, come dire, una scommessa, riuscire in qualche modo a creare un dialogo con un pubblico in divenire, con qualcosa che dalla società si sta esprimendo, con un interesse significativo che si sta esprimendo e che già esiste in potenza e che va raccolto. E lo stiamo cercando di farlo, appunto cercando di proporre quel tipo di cinema documentario che in qualche modo come dire, opera anche un superamento del confine tra documentario in senso stretto e cinema di finzione, e questo abbiamo visto essere particolarmente apprezzato dal pubblico. Quindi diciamo che stiamo vivendo una fase molto felice. Io spero che ci sia sempre di più la capacità di riconoscerci nel pianeta cinema, di riconoscerci, di riconoscere le attività che le singole realtà territoriali svolgono, e fare in modo che queste entrino, come dire, in un sistema virtuoso. E quindi devo dire che l'associazione DoKit sta, come sapete molto bene, sta lavorando da sempre e continua a lavorare in questa direzione. Io spero, insomma, che riusciremo nel futuro a consolidare, insomma, questa tendenza, ecco. Tornando alla rassegna, un'impressione generale sui titoli proposti quest'anno, Pinangelo? Allora, la rassegna quest'anno ha dei titoli che io ritengo davvero molto preziosi per quanto riguarda il cinema documentario contemporaneo, a parte il titolo che ho citato, che riguarda appunto l'ultimo viaggio dei Rolling Stones in America Latina. Abbiamo un film bellissimo, raffinatissimo, che ci arriva dall'Austria, di una regista molto importante austriaca che si chiama Ruth Beckmann, e che ha realizzato un film che in Italia è stato portato dal festival, dal Torino Film Festival, e che ha vinto poi il Filmmaker di Milano. È un film dal titolo The Dreamed Ones, che rievoca in un modo straordinario il carteggio struggente, interessantissimo e appassionante che i due poeti, Paul Silén e la rumeno ebreo che visse la deportazione, e la poetessa Bachmann austriaca, si scambiarono durante un lungo periodo del Novecento. È un film straordinariamente raffinato, perché la regista rievoca questo carteggio mediante le interpretazioni di due giovanissimi interpreti che prestano la voce a queste parole dei due poeti, e che nel registrare queste lettere vivono una relazione in cui risuona davvero tutto uno spaccato profondissimo del nostro Novecento. E questo, io sono molto orgoglioso di questo film, che è stato scelto per la settimana che comprende il giorno della memoria, il 27 gennaio, quindi lo vedrete in programmazione in questa prima settimana. Altri film interessantissimi: c'è un film che sta correndo per gli Oscar, che è un film che si concentra su un personaggio bizzarro della politica americana, ed è si lega strettamente all'attualità il personaggio in questione, Anthony Wynn, che ha deciso qualche tempo fa di correre per la carica di sindaco di New York. Lo vediamo in azione dopo gli scandali sessuali che lo hanno coinvolto, ma lo vediamo in azione in un contesto particolare, perché la moglie di Anthony Wynn, che coordina e organizza questa avventurosa campagna elettorale davvero molto appassionante, è quella che poi ha organizzato e coordinato anche l'ultima campagna elettorale di Hillary Clinton. Quindi insomma sono film che si connettono con la realtà che stiamo vivendo in questi anni, in questi ultimissimi anni, e che poi riguarda molto da vicino le vite di ognuno di noi. Film diciamo di straordinaria poesia è un film che ci arriva dalla Polonia, realizzato da uno dei più importanti documentaristi polacchi, che è Paweł Ogiński, figlio di Marcel Ogiński, un maestro del cinema documentario polacco, che ha realizzato un film davvero davvero importante per quanto mi riguarda. Segue per un lungo periodo delle sessioni delicatissime di psicoanalisi che una mamma e una figlia conducono in presenza di uno psicoterapeuta, e vediamo dove davvero una relazione così profonda d'amore tra queste due donne e così sofferta si trasforma nel tempo, trasformando i corpi, trasformando fisicamente, in particolare questo riguarda la ragazza ovviamente. Sono film appunto che operano su vari livelli della nostra società. Un altro film di straordinaria potenza umana e che voglio segnalare in questo momento è Les Sauteurs, che è distribuito in Italia da I Wonder e Zalab Distribuzione. È un film che racconta dall'interno l'ultimo pezzo del viaggio dei migranti che compiono per arrivare in Europa, e che conduce diciamo al confine con il Marocco, il confine con la Spagna, in terra marocchina, ed è un viaggio che ci racconta la ferita più profonda forse del mondo contemporaneo. Realizzato questo film da uno di loro, quindi dall'interno di questo viaggio, questi uomini che si accampano prima di saltare il muro che è stato realizzato e che è sorvegliato, e si accampano in un bosco, quindi vediamo diciamo così il loro quotidiano, il loro tempo quotidiano. La cosa di straordinaria importanza, io volevo anche menzionare questo aspetto dei film di quest'anno, è che in fondo la realtà che questi film trattano non è una realtà immediatamente riconducibile a ciò che noi possiamo toccare o concepire con numeri o statistiche, eccetera. È una realtà che risiede in una visione, in questo caso nella visione, che è veramente di straordinaria poesia, nel dramma, nella visione che questi uomini migranti hanno dell'Europa, per esempio. È lì che risiede la realtà dell'Europa, più che nelle sedi istituzionali, sì, eccetera. Sì, sì. Quindi sono film che hanno a che fare molto con questo desiderio di trasformarci, questo desiderio di trasformare il mondo, più che con la constatazione dei fatti. Sì, ecco. Sì, sì. Senti, Pinangelo, per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti web? Allora, è possibile intanto ricercare la nostra pagina Facebook, su Facebook, Mese del Documentario, ed è possibile da lì raggiungere con un click il nostro sito mese.documentaristi.it. Ma non mi vorrei sbagliare, perché basta comunque fare questi passaggi, e dove è lì è possibile trovare appunto il programma, le sinossi dei film, insomma i contenuti delle masterclass che sono a Roma dal 23. Ci tenevo anche a ricordare qualche nome delle personalità che terranno le masterclass. Sabina Guzzanti, per esempio, ci racconterà il suo percorso di creazione, quando diciamo realizza film. La Sabina Guzzanti ha realizzato un film molto interessante presentato nel 2014 a Venezia, che è La Trattativa, ma ne ha presentati tanti altri e conosciamo molto bene il suo tipo di lavoro. Abbiamo autori molto interessanti, molto apprezzati, come per esempio Pippo Del Bono, che è un attore straordinario, autore teatrale straordinario, ma anche un regista che negli ultimi anni ha veramente segnato, come dire, l'evoluzione del linguaggio cinematografico documentario, che racconterà il suo ultimo lavoro intensissimo, che è Il Vangelo, che è anche uno spettacolo teatrale e che ha presentato a Venezia quest'anno. Poi avremo sempre alla Casa del Cinema il pomeriggio i due registi molto noti, Massimo D'Onofrio e Martina Parenti, che erano in concorso internazionale a Venezia quest'anno, insomma nell'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, con il film Spira Mirabilis. Federica Di Giacomo, che ha vinto la sezione Orizzonti dell'ultima edizione sempre della Mostra del Cinema di Venezia, e tantissimi altri nomi che potete trovare sulla nostra pagina del sito. Benissimo, Pinangelo, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi, buon lavoro e buon mese del documentario. Ci vediamo lunedì 23 alla Casa del Cinema. Ciao. Pinangelo Marino, direttore della quarta edizione del Mese del Documentario alla Casa del Cinema qui a Roma dal 23 gennaio al 19 febbraio. Eccoci con il regista Francesco Cordio, direttore del Festival Diritti a Todi, dal 25 al 28 febbraio. Francesco, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno. Allora, l'abbiamo seguito fin dalla prima edizione, racconta un po' cos'è questo festival, Francesco. Il Festival Diritti a Todi, se non ho sentito male, hai detto febbraio, in realtà è a gennaio. Gennaio. Ah sì, la settimana prossima. A Todi è un vero festival, non è una rassegna di documentari sui diritti umani, è un festival perché abbiamo in parallelo moltissime iniziative, mostre di artisti, spettacoli teatrali, convegni importanti dei nostri collaboratori, la Lega Italiana dei Diritti Umani, la ONLUS Cittadinanza Attiva e anche l'Alto Commissariato per i Rifugiati, che farà un convegno il sabato 28 alle 11 su Europa, Mediterraneo e Africa e sui rifugiati. Senti, per l'aspetto cinematografico abbiamo 9 film lungometraggi in concorso da tutto il mondo e 13 cortometraggi, e ogni giorno avremo delle proiezioni di film fuori concorso, di film ospiti, alcuni che arrivano dai festival con cui siamo gemellati e altri sono film che ospitiamo per altre ragioni. Insomma, noi da quest'anno iniziamo una collaborazione con Molise Cinema e con la Festa di Cinema del Reale di Specchia, e avremo con noi i due direttori dei festival, e con uno in particolare, con Paolo Pisanelli, oltre a fare la proiezione del film Il Terremoto di qualche anno fa, che lui fece all'Aquila, dopo il terremoto dell'Aquila, il sabato mattina con una nuova realtà di documentaristi umbri faremo un piccolo convegno sul cinema del reale e su cosa i documentaristi possono fare nei luoghi colpiti dal terremoto, in che modo possono aiutare e agire nei luoghi colpiti dal terremoto. E diciamo cinicamente comunque è assolutamente in tema con le nuove scosse di questi giorni. Francesco, ci lasci tutti i riferimenti web per maggiori informazioni? Abbiamo un sito con un blog dove ci sono notizie aggiornate tutti i giorni all'indirizzo www.dirittiattodi.it, e poi sulla pagina Facebook, ovviamente, Festival Diritti a Todi, c'è tutto, il programma giorno per giorno di tutte le proiezioni, degli spettacoli, abbiamo delle bellissime giurie, una giuria per i lungometraggi presieduta da Daniele Vicari, con Daniele Silvestri, Riccardo Chiattelli, Maurizio Di Rienzo, una giuria di cortometraggi e una giuria della stampa. Quest'anno abbiamo anche una giuria della stampa che daranno un premio al miglior film. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, crepi il lupo. Un abbraccio. Ciao Francesco. Ciao, ciao a tutti. Francesco Cordio, direttore del Festival Diritti a Todi dal 25 al 28 gennaio. Ora mandiamo un intervento registrato, perché l'intervista con Marco Amenta l'abbiamo realizzata martedì, il suo documentario è uscito giovedì scorso, 12 gennaio, eccolo qui il suo contributo. Con Marco Amenta, che ci parlerà del suo film documentario Magic Island, che avevamo presentato quando fu ospite del Salina Doc Fest e ora è uscito in sala lo scorso giovedì. Marco, ben ritrovato a Visionari. Buongiorno a tutti. Ciao, ti chiedo subito com'è andato questo primo fine settimana. Va bene, è un piccolo film, come l'ha definito qualche giornalista, un piccolo miracolo, una piccola produzione, un piccolo miracolo di cinema rispetto alle grandi produzioni, che come diceva qualcuno non ci sono piccoli film e grandi film, però rispetto alle produzioni americane sicuramente è un piccolo film, che però va al cuore degli spettatori, da quello che ho potuto vedere accompagnando il film a Palermo, a Milano e a Roma. E questo è quello che conta, poi non né il genere documentario, film o il budget, ma la sincerità con cui si fa un film, la narrazione, la forza degli attori, dei personaggi, insomma è questo. L'importante è fare emozionare le persone, sì, il pubblico. Sì. Marco, a proposito di cinema americano, qui si parla del rapporto tra America e Sicilia, giusto? Esattamente, perché la storia nasce da questo attore italo-americano, un caratterista molto famoso a Hollywood, Vincent Schiavelli, che era, per chi non ricorda il nome, era il fantasma nella metropolitana di Ghost, era quel fantasma che insegnava al protagonista a passare fra i vagoni della metropolitana, e quello alto, strano, col cappello, un po' brutto, diciamo, nella sua diversità. E poi l'ha fatto anche Qualcuno volò sul nido del cuculo, Il cattivo in Batman e un centinaio di altri film dove era il caratterista, diciamo, sì, considerato, sì, da giornali americani uno dei più grandi caratteristi della storia del cinema. E lui era di origine di Polizzi Generosa, questo paesino sulle montagne siciliane, da cui proviene tra l'altro per caso anche Martin Scorsese, quindi tante casualità. Sì. E lui a 50 anni decise di abbandonare Hollywood e il luccichio dei tappeti rossi di Los Angeles per tornare in questo paesino, forse per cercare dei valori più veri, diversi, la famiglia, le amicizie, la dimensione umana di un paese, insomma, il cibo, perché lui era un grande cuoco e amava tantissimo la cucina. E quindi è tornato in Sicilia, là l'ho conosciuto, siamo diventati amici, abbiamo mangiato tante volte insieme. Lui aveva questo figlio di cui parlava, era un po' preoccupato, dice: Marco, io ho questo figlio a New York che fa il musicista, si fuma le canne, sono preoccupato. Io ho detto: Vincent, il minimo è che si fuma le canne, l'hai mezzo abbandonato a New York, insomma, c'ha 17 anni, cioè ringrazia che non diventi un serial killer, cioè farsi qualche canna non è poi la fine del mondo. E insomma, e poi Vincent purtroppo si è ammalato ed è morto qualche anno dopo, e il figlio non è venuto al funerale, non è venuto quando lui stava male e non è mai tornato in Sicilia per 10 anni, con grande stupore degli abitanti di Polizzi, insomma, che chiaramente un figlio che non va al funerale del padre in Sicilia è una cosa strana, quindi qualcuno ce l'aveva anche con lui, lo giudicavano, eccetera. E quindi dopo molti anni a me è venuto in mente di ricontattare Andrea, il nome del figlio, per vedere che fine aveva fatto, perché avevo in mente di fare un film sulla Sicilia che fosse diverso da quelli precedenti che avevo fatto sulla mafia, che tutti mi chiedevano, soprattutto gli italoamericani, no? Quando presentavo La Sicilia Ribelle, Il Fantasma di Corleone, questi miei film precedenti in America, mi dicevano: ma perché fai sempre solo film sulla mafia? La Sicilia è anche bella, ha valori bellissimi. E quindi avevo in mente di fare questo film diverso, e poteva esserci uno spunto dalla storia di Andrea. E giusto appunto, e per caso Andrea mi dice: guarda, è strano che tu mi chiami ora, perché ci sono dei soldi sul conto di mio padre in banca e mi hanno detto che se non torno subito a prenderli, sono passati 10 anni, perdo questi soldi, questa eredità. Cioè, quindi lui doveva fare questo viaggio di cui aveva molta paura, però, perché significava tirar fuori questo conflitto irrisolto col padre, questa elaborazione del lutto che lui per 10 anni aveva nascosto a se stesso e aveva tenuto dentro. E quindi ci siamo decisi a fare questo viaggio insieme e l'ho accompagnato in questo viaggio, questo road movie, che non è soltanto un viaggio fisico ma soprattutto un viaggio interiore, sì. Di questo ragazzo che ora ha 27 anni e fa il musicista e torna in Sicilia, quindi alla riscoperta del padre, dei valori del padre e anche dei valori più siciliani e più italiani, insomma, essendo lui cresciuto a New York. Mm-hmm. Senti Marco, questo lavoro in quante sale è al momento? Vediamo, altre sale si aggiungeranno, visto che comunque il risultato è stato abbastanza buono. Il pubblico gli piace, insomma. Sì. Senti, e per chi volesse saperne di più, c'è un sito internet, una pagina Facebook? La pagina Facebook di Eurofilm, che è la società che l'ha prodotto, di mia sorella Simonetta Menta, che ringrazio, che è anche la società distributrice. Ci siamo avventurati in questa avventura della distribuzione anche. Quindi la pagina Facebook di Eurofilm, ci sono gli eventi e le varie sale dove il film sta girando. Benissimo. Allora, un abbraccio e a risentirci presto, Marco. Grazie tante, è andato al cinema allora, sì. A vederlo. A presto, ciao. Ciao, ciao. Questo era l'intervento di Marco Amenta, regista del documentario Magic Island, uscito in sala lo scorso 12 gennaio. E con lui chiudiamo l'appuntamento settimanale di Visionari, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione sono sul sito, sull'home page, colonna centrale Trasmissioni Visionari, la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. A giovedì prossimo.